Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Allora, forse non lo stiamo percependo appieno considerando che siamo appena usciti dalla pausa per l'All-Stars Game, ma qui siamo in piena volata playoffs, considerando che mancano meno di 20 partite di media per squadra da giocare. Stiamo quindi avvicinandoci a passi da gigante verso il momento più caldo della stagione, per il quale torneremo nelle prossime puntate a dettagliare classifiche, prospettive ed anche previsioni relative agli award stagionali, che presumibilmente saranno decretati a titolo assegnato come accadde lo scorso anno. L'idea per questa autentica puntata di transizione è quella di approfondire almeno tre punti tra i più discussi al momento, in relazione a quello che sta accadendo nella Lega, sia a livello di squadre che a livello di sfide tra le stesse. Prima di iniziare però una piccola postilla relativa al karma nero. Per Jimmy Butler, infortunio praticamente immediato al rientro dopo aver rifiutato di scendere in campo per la partita delle stelle e dopo aver attirato per questo numerose critiche su di sé. Del resto aveva scelto di non giocare per riposarsi, pare, ed il riposo non gli ha fatto assolutamente bene. Si tratta apparentemente di una tegola relativa per Minnesota, considerando che dovrebbe rientrare per la post-season, anche se bisogna vedere come, e che la qualificazione non è certo in dubbio per la squadra guidata in campo da Carl Anthony Towns. Considerando la raffica di critiche che stanno piovendo addosso anche al pessimo Zaza Pachulia, chissà che non capiti qualcosa di oscuro anche a lui. Non mi permetterei mai ovviamente di augurare niente di male a nessuno, ma colui che lo scorso anno è stato il giustiziere di Kawhi Leonard è volontariamente franato addosso ad un già battuto Russell Westbrook nella sfida tra Oklahoma City e gli Warriors. A proposito di Kawhi Leonard, tra l'altro, si dice che sia tornato ad allenarsi in campo, contrariamente alle voci che circolavano e che quindi ci sia una flebile speranza di rivederlo prima della post-season. Comunque, tornando a Pachulia e Westbrook, onestamente, riguardando le immagini, la sensazione è quella di una volontà di far male ad uno dei giocatori di spicco nella Lega, franando il ginocchio sul polpaccio, fortunatamente senza conseguenze. Questo ha però generato un gran bel polverone, con un Kyrie Irving che ha pubblicamente criticato le abitudini sporche del giocatore georgiano e un NBA che comunque ha deciso di non squalificarlo per la partita a seguire. Le polemiche verso gli arbitri sono comunque riprese da dove si erano interrotte prima del tanto sbandierato meeting nel weekend delle stelle, presentato come risolutore. Ha rincarato la dose anche Paul George, dichiarando quanto poco i Big Three siano tutelati dai fischietti in relazione al loro gioco e dai pochi viaggi in lunetta di conseguenza. Stesso discorso fatto più o meno anche da LeBron James. Insomma, i playoffs si avvicinano ed il clima non sembra decisamente destinato a distendersi. Iniziamo però con il primo dei tre macro argomenti da analizzare. In settimana, durante un'intervista ad Anthony Davis, il monociglio più famoso della Lega ha dichiarato che senza l'infortunio a DeMarcus Cousins, i Pelicans avrebbero potuto lottare per il titolo. Si tratta di un'affermazione indubbiamente esagerata, ma con una puntina di vero o quantomeno sottolineante lo splendido periodo a livello di risultati di una squadra che sta sbocciando partita dopo partita, anche grazie all'innesto sostitutivo di Nikola Mirotic. Il che non è assolutamente male se si pensa che Boogie sarà free agent estivo, ma che potrebbe anche decidere di restare a New Orleans se vedesse la concreta speranza di raggiungere vette importanti nei prossimi anni. Intanto, volete le statistiche di Anthony Davis nelle ultime 10 gare al momento in cui stiamo registrando, che al solito è mercoledì pomeriggio? 36 punti di media, praticamente 13 rimbalzi e 2 stoppate e mezzo a partita. Vi sembrano statistiche pazzesche? Bene, vi dico che nella sfida contro Phoenix ne ha messi 53 con 18 rimbalzi e 5 stoppate. Tre giorni prima contro Miami, 45 con 17 rimbalzi, 5 stoppate e stavolta anche 5 recuperi. Insomma, con un giocatore del genere è chiarissimo che si può ben sperare e che, a differenza degli anni passati, il contorno appaia potenzialmente utile ad alzare ulteriormente l'asticella del livello di squadra. Pur considerando comunque che i Pelicans al momento hanno una striscia di vittorie aperta 6 consecutive e sono pienamente nella top 8 ad ovest. ad ovest, per la verità, se escludiamo le due inarrivabili in testa alla Conference dalla Lega, ci sono 8 squadre che si lottano 6 posti, tutte piuttosto vicine al momento. Quindi potenzialmente per i Pelicans non sarebbe impossibile pensare di agganciare il terzo posto ad oggi occupato da Minnesota, soprattutto se la striscia di vittorie dovesse proseguire. Il segreto molto poco nascosto al momento è rappresentato da Jrue Holiday, che viaggia a quasi 20 punti per allacciata di scarpe. La chiave per proseguire nel convincere è sicuramente affidata nelle mani di Rajon Rondo, che sarebbe playmaker ideale per una squadra simile, con un primo ed un secondo violino ben determinati, al momento il secondo lo fa Holiday, ed una terza opzione offensiva capace di giocare dentro e fuori come Mirotić, che potrebbe anche ben convivere con Davis and Cousins un domani, con quest'ultimo potenzialmente capace di agire addirittura da ala piccola in un quintetto altissimo e di sicura forza potenziale. Dicevamo, con un Rondo capace di selezionare al meglio le sue scelte, limitare le sue responsabilità offensive e concentrarsi sull'organizzazione dei tiri altrui, questa squadra è già noiosa da incontrare al primo turno così com'è, anche senza Boogie. Immaginiamoci quello che potrebbe mai essere se DMC decidesse di restare nel progetto, con un quintetto potenzialmente da prima fascia nella Lega. Una delle realtà capaci di far sperare al meglio, in opposta tendenza a quello che accadeva un anno fa, quando all'arrivo di Boogie dubbi sulla convivenza con Davis e sull'efficacia delle Twin Towers al centro del progetto erano copiosi. Ma restando ad ovest e considerando le due squadre in testa alla Conference che si stanno battagliando per il miglior record della Lega ed il vantaggio campo nella già apparentemente scritta finale di Conference ad ovest, la domanda del momento è: può Houston battere Golden State, ovviamente in una serie di 7 partite? Secondo il mio personale parere, le numerose discussioni sul tema in questo momento sono influenzate dal fattore dei cambiamenti avvenuti rispetto allo scorso anno per le due squadre, proprio a livello di innesti. Houston ha costruito una squadra capace di aumentare le proprie opzioni in materia di decisività e responsabilità, affiancando ad un Harden che aveva steccato la parte finale della serie contro gli Spurs degli scorsi playoffs, nient'altro che Chris Paul. Il cosiddetto supporting cast alle due stelle continua a vantare al suo interno un Eric Gordon confermatissimo da 18 punti per gara ed un Clint Capela che continua a crescere entrando di diritto tra i big man chiave della Lega, attestandosi attorno ai 14.5 punti e gli 11 rimbalzi per partita. La vera rivoluzione però è avvenuta in panchina, dove la rotazione di 12 mesi fa era limitatissima e si è arricchita con giocatori considerati scarto da gran parte delle altre franchigie, divenuti potenziali risolutori per caratteristiche ed esperienza come Gerald Green ed il neo arrivato Joe Johnson. Insomma, la squadra di D'Antoni ha completato il roster progressivamente, cercando di coprire quelle falle evidenziate nel finale di stagione scorsa e la percezione, confermata per la verità dal record, di una loro crescita esponenziale si scontra con l'apparente immobilismo di Golden State in materia di soluzioni. Sì, perché tralasciando piccoli innesti e contemporaneamente considerando il calo effettivo a livello di incidenza di giocatori fino all'anno scorso chiave come Shaun Livingston e soprattutto Andre Iguodala, la percezione è quella di una Golden State stabile o comunque leggermente in calo rispetto all'armata apparsa la stagione scorsa e di una Houston di contro in crescita costante tanto quanto l'acquisizione di forza e consapevolezza rispetto alle altre squadre della Lega. Si tratta, come tengo a sottolineare, però di semplici percezioni. I Warriors hanno infatti il trio di giocatori più devastante dell'intero pianeta cestistico, affiancati da un tuttofare che all'occorrenza sa esattamente come vincere le partite, e sto parlando di Draymond Green. Stephen Curry sta giocando una stagione da MVP assoluto, apparentemente senza neanche forzare troppo, e Kevin Durant in un'ipotetica classifica si attesterebbe sotto di lui di poco, giocando con il freno a mano tirato palesemente, secondo me, dall'inizio dell'anno. Senza nulla togliere a Houston, sembra che i Warriors la stagione non abbiano ancora iniziato a giocarla a livello di concentrazioni ed energie sparate al massimo e che probabilmente saranno costretti a farlo giusto in un'ipotetica finale di Conference contro Harden e compagni. Questo dà a loro un vantaggio tremendo anche a livello di freschezza e nella possibilità di poter tornare per l'ennesima volta in finale. Attenzione però, perché questo non vuol dire che questa Houston non abbia una possibilità di battere una Golden State al completo, ci mancherebbe altro. Voglio soltanto sottolineare che la discussione in questo momento è viziata da percezioni diverse che non rispecchiano l'effettiva realtà delle cose e che i Warriors restano, nonostante tutto e tutti, la squadra più forte del mondo, ovviamente se al completo completo ed in forma. In ogni modo sarà una sfida potenzialmente bellissima tra queste due squadre ed il vantaggio campo potrebbe anche contare più di qualcosa, pertanto la volata finale ad Ovest può risultare ulteriormente decisiva in chiave raggiungimento della serie finale. Lo stesso discorso si potrebbe fare ad Est, considerando il testa a testa attuale tra Toronto e Boston, con i Raptors che, ammettendo il vantaggio campo in una sfida contro i Celtics ipotetica in finale di conference, potrebbero davvero giocarsi le loro chance. In realtà però la sensazione è che uno dei due posti per la finale di conference tocchi a Cleveland, solo ed esclusivamente perché ha in squadra un certo LeBron James e perché il roster di contorno recentemente riformato appare concepito e costruito per esaltarne le gesta. Ma l'argomento sul quale volevo focalizzarmi riguarda un'altra squadra, che lotta per conquistare la certezza di una postseason che per la verità non appare in dubbio e che in seguito al cambio di allenatore ha inanellato una serie di ottimi risultati. Sto parlando dei Milwaukee Bucks. La domanda è: questi Bucks possono allo stato delle cose essere squadra fastidiosa e pericolosa da affrontare in un possibile primo turno? La risposta è indubbiamente sì, ma a livello di futuribilità questa squadra è già in grado di operare un ulteriore salto a breve termine, ovviamente salto di qualità? Qui è necessario fare una precisazione secondo il mio punto di vista. Si parla tantissimo del dislivello tra Est ed Ovest, tanto che si sta discutendo pesantemente della possibilità di eliminare le divisioni geografiche nella classifica di qualificazione playoffs, ma se guardiamo agli organici presenti nel tanto vituperato Est, mettendo da parte ovviamente il trittico Boston, Toronto e Cleveland, le prospettive non appaiono così pessime. Ora, è vero che i Cavaliers potrebbero perdere LeBron James la stagione prossima, ma in materia di potenziale di crescita i valori di squadre come Philadelphia, Indiana, Detroit e soprattutto i Bucks sono visibilissimi e destinati a cementificarsi ulteriormente nella stagione a venire. Non dimentichiamoci inoltre anche il potenziale di Washington con un John Wall a fianco di Bradley Beal e cerchiamo di capire che forse la Eastern Conference può rifiorire piuttosto rapidamente anche a livello di contrapposizione con gli squadroni ad Ovest. Proviamo proprio ad analizzare Milwaukee, che appare già sufficientemente completa per attendersi un salto di qualità importante, ovviamente mantenendo questo roster, già dal prossimo anno. La stella assoluta è ovviamente Giannis Antetokounmpo, un ragazzo che cresce sia atleticamente che fisicamente così tanto negli ultimi anni da far semplicemente paura immaginandoselo l'anno prossimo. Tutto il mondo è concorde oramai nel pensare che si tratti di uno di quei giocatori speciali destinati a trasformare in contender da solo qualsiasi squadra possibile, un po' alla LeBron James quindi. Per cui, partendo da lui, il futuro dei Bucks è sicuramente roseo. Accanto al greco è appena rientrato però un giocatore sfortunatissimo nelle ultime stagioni, ma potenzialmente devastante nelle sua capacità di giocare sia dentro che fuori l'area pitturata. Si tratta di Jabari Parker. Lui sarebbe una prima opzione offensiva in numerose delle 30 squadre della Lega, ma qui sarebbe ed è la spalla di Giannis. Non è assolutamente male come prospettiva ed in queste prime gare dal suo rientro lo stiamo assolutamente vedendo. Ma andiamo a guardare al supporting perché qui le cose si fanno interessanti. In molti avevano indicato l'ala piccola Chris Middleton come un potenziale meritevole della chiamata alla partita delle stelle e guardando alla sua stagione non sarebbe stato assolutamente uno scandalo. Ci sono 20 punti di media per lui, per gara ovviamente, al momento. Accanto allo stesso ci sono due ottimi giocatori a livello di comprimari come John Hanson e Tony Snell, con un ruolo ben definito, consapevole e potenzialmente decisivo in una sfida singola. Rispetto ai piccoli, colui che fu rookie dell'anno lo scorso anno, Malcolm Brogdon, ha proseguito in una crescita offuscata solo dalla presenza in squadra ed in quintetto di quell'Eric Bledsoe arrivato a stagione già avviata dai Phoenix Suns. Guardiamo alle cifre di questi due quindi. Brogdon viaggia vicino ai 14 punti di media, non è un grandissimo assistman né ovviamente un rimbalzista, ma appare come un ragazzo capace di applicarsi in differenti mansioni e dimensioni di gioco, soprattutto con coscienza. Bledsoe invece ne mette oltre 17 per gara in materia di punti, smazzando quasi 5 assist e soprattutto stando sulle due palle rubate per allacciata di scarpe, a dimostrazione di una capacità di pressare il portatore avversario o di un anticipo di passaggio durante rotazioni assolutamente spiccata. Insomma, le pedine che possiamo posizionare su un'ipotetica scacchiera riguardante Milwaukee sono piuttosto interessanti. Soprattutto a livello di esperienza stiamo parlando comunque di un organico relativamente giovane che anche semplicemente amalgamandosi senza particolari aggiunte può a mio avviso aumentare nettamente il numero di vittorie già dalla prossima stagione. Se nell'analizzare i Pelicans è stato giusto sottolineare quanto la permanenza o meno di DMC fosse fondamentale per completare l'attesissimo salto di qualità sperato, per quanto riguarda i Bucks sembrano non esserci particolari pericoli di perdita in relazione ad uno dei giocatori componenti lo Starting Five e con ottime alternative allo stesso già presenti in casa. Questi quindi possono tranquillamente potenzialmente prendere il posto dei Cavs nella classifica ad est del prossimo anno, soprattutto nel caso James decidesse di emigrare in altri lidi, ammesso ovviamente che non vada a Philadelphia, che trasformerebbe ovviamente in squadra da titolo affiaccandosi a Simmons ed Embiid, ma questo è comunque un altro discorso e in quel caso lì Philadelphia sarebbe indubbiamente la potenziale regina della Eastern Conference. Comunque, anche questa puntata di NBA Week giunge al termine. Appuntamento rinnovato quindi per la prossima settimana e seguiteci se volete anche sulla nostra pagina Facebook che si chiama appunto NBA Week. Per ascoltarci, comunque, gli appuntamenti settimanali restano sempre gli stessi. Tutti venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo la settimana prossima. It's over, ladies and gentlemen.